Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno e buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete tutte le domeniche con la stampa periodica, segnalazioni dalla stampa periodica italiana, qualche volta anche straniera. Questa mattina voglio cominciare da un articolo molto interessante che ho visto su Panorama, è di Luca Sciortino, e l'articolo si potrebbe intitolare Il secondo della discordia, l'hanno chiamato il secondo che fa litigare il mondo. Cosa sarà mai un secondo? Beh, dipende appunto, perché il leap second, questo è il particolare secondo di cui si parla, è un secondo artificiale ed è in vigore dal 30 giugno del 72. A cosa serve? Serve ogni anno appunto ad aggiungersi al tempo calcolato dagli orologi atomici, che sono sì estremamente precisi, ma vanno armonizzati con il tempo della rotazione terrestre, che è per assurdo approssimativo, quindi si tratta di tenere esattamente il tempo che tiene il nostro pianeta nella sua rotazione. Allora, per convenzione si è deciso appunto nel 1972 di aggiungere questo leap second. È leggermente meno di un secondo, perché leggo appunto da Panorama: il tempo necessario è di 0,9 secondi, serve perché gli orologi atomici siano sincronizzati con la scala temporale basata sulla rotazione terrestre. Viene aggiunto una volta l'anno, il suo esatto ammontare non è completamente predicibile, quindi questo 0,9 intuisco è una sorta di stima grossolana di questo valore, che invece ha bisogno di essere molto preciso. Però cosa sta succedendo? Sta succedendo che il Bureau dei Pesi e Misure di Parigi, l'International Bureau dei Pesi e Misure di Parigi, ha messo sotto accusa questo leap second e ne vuole l'abrogazione. Perché? Perché questo leap second condiziona tutti coloro che devono sincronizzare sistemi tecnologici con estrema precisione. Questa è la spiegazione che viene presentata da Patrizia Tavella dell'Istituto Italiano di Ricerche Metrologiche proprio su Panorama. Tavella cita anche alcuni esempi: sono gli operatori dei sistemi di navigazione satellitare che devono aggiungere il leap second, sono i futuri sistemi di navigazione satellitare che arriveranno dal Giappone, dall'India. Anche il nostro sistema Galileo potrebbe avere dei problemi continuando a usare questo particolare metodo di sincronizzazione tra tempo terrestre e tempo atomico. E poi lo stesso può valere in ambiti come le transazioni finanziarie, le telecomunicazioni, la sincronizzazione dei computer in rete. Quindi tutti questi sistemi che, per quanto un secondo, anzi qualcosa meno di un secondo, possa sembrare proprio nulla, invece possono soffrire in modo sensibile da questo leap second. In realtà non sappiamo ancora se questo succederà, se abbandoneremo o meno il leap second, perché ci sono dei paesi contrari ad abolirlo, sono la Cina, il Canada, la Gran Bretagna, e ci sono dei paesi invece favorevoli ad abolirlo, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e l'Italia. Si sono riuniti, ci fa sapere Sciortino, il 3-4 novembre apposta un po' di delegati per decidere che fare dell'leap second, non hanno raggiunto alcun accordo, torneranno a riunirsi nel gennaio 2012, presumibilmente ci sarà un altro leap second di cui discutere, e decideranno appunto, valuteranno se decidere, se riusciranno a decidere qualcosa sul futuro di questo secondo così infinitesimale ma così importante. Importante anche per i progressi che fa la tecnologia, e quindi ci consegna sempre degli strumenti che cambiano molto i nostri modi di vivere. A questo proposito, su Focus di dicembre, l'abbiamo già, come dire, assaggiato nella scorsa puntata, ma abbiamo trovato qualche altro spunto che vale la pena di proporvi. C'è una divertente raccolta di segnalazioni dei lettori a proposito dei nativi digitali, che più nativi digitali non si può, verrebbe da dire, cioè bambini molto piccoli che hanno accesso facile all'iPad dei genitori piuttosto che ai computer che sono in casa e così via, e sorgono dei comportamenti inattesi con la spontaneità che poi è tipica appunto dei bambini, che fanno poi riflettere anche sulla nostra percezione del reale. Allora, ad esempio, un amico con una figlia di 4 anni, come altre famiglie, non ha TV in casa, però ha i computer, e visitando appunto un'altra famiglia che invece aveva un televisore, la figlia ha chiesto: ma qui il mouse dov'è in questo monitor? Quindi la distinzione tra il computer e il televisore era un po', diciamo, mancante nella percezione di questa bambina. E poi c'è un altro caso di una bambina che, abituata all'iPad, quindi a fare questo gesto di aprire, di allargare le immagini, cosa che si ottiene semplicemente allargando le dita sull'immagine, sull'iPad, ha provato a fare la stessa cosa su una fotografia vera e propria, poiché naturalmente la fotografia non muta, la bambina ha sentenziato che la fotografia era rotta, è una bambina molto piccola, quindi non in grado di distinguere il passaggio tra i due mezzi. E poi un caso abbastanza divertente, al supermercato, mentre la mamma fa la spesa, la mamma si ferma a leggere l'etichetta di un prodotto e il figlio si spazientisce e dice: mamma, ma non potresti semplicemente cliccare sopra l'etichetta così vediamo cosa c'è dentro? Naturalmente questo nella realtà tangibile di tutti i giorni tra gli scaffali dei supermercati non è ancora possibile, però l'ancora ce lo metterei per sicurezza. Qualche volta però capita che per andare avanti si debba un po' guardare indietro. Ad esempio, Geo di questo mese, del mese di dicembre, pardon, non siamo ancora in dicembre, anche se oramai specialmente le testate mensili si sono portate avanti con le loro proposte in edicola. Dicevo, su Geo molte pagine sono dedicate alle Maldive, non tanto nel senso di esaminarle come meta turistica, naturalmente da questo punto di vista sono molto note, ma per invece raccontare altri tipi di esperienze che pure ci sono alle Maldive e sono decisamente non noti. Ad esempio, alle Maldive opera un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Milano Bicocca e precisamente da Paolo Galli, che è docente di ecologia a Milano Bicocca, che sta cercando il modo di riprodurre una particolare colla che viene prodotta in natura da un minuscolo parassita, e questa colla è resistentissima. Infatti questi parassiti riescono a restare attaccati a dei tonni che nuotano a 70 km orari, però può essere altrettanto rapidamente staccata, recisa dallo stesso parassita. Quindi è una proprietà che non siamo in grado di riprodurre dal punto di vista tecnologico. Naturalmente, se riuscissimo a disporre di un materiale del genere, questo potrebbe essere utilizzato in tantissimi campi. Allora, da qualche anno ormai Paolo Galli fa la spola tra Milano e le Maldive, lo racconta Gabriele Ferrari, poi naturalmente anche con delle bellissime foto su Geo, e spiega che già negli anni 90 degli australiani avevano provato a sintetizzare questa biocolla, questa colla naturale, ma non ci erano riusciti, anche perché non avevano una tecnologia sufficiente a disposizione. Sono dei parassiti lunghi 200 micron, quindi piccolissimi, però appunto restano attaccati a tonni che viaggiano a 70 km l'ora. Tra l'altro ne hanno trovato una particolare variante di questi parassiti e l'hanno chiamato bicocche, il parassita appunto in onore della università da cui provengono. A che servirebbe riuscire a rifare in laboratorio questa colla dei parassiti? Beh, ad esempio in medicina, perché immaginate una sostanza adesiva con un potere collante che però è reversibile, e quindi si potrebbe, come dire, dare dei punti e poi poter ancora intervenire in qualche modo. Però si potrebbe utilizzare ad esempio per impiantare gli elettrocardiogrammi dinamici quando il paziente deve tenere addosso per molto tempo, magari per ore, gli elettrodi. E poi naturalmente l'ortodonzia e le infinite applicazioni in ambito industriale, perché ovviamente la colla è da sempre una delle questioni più studiate appunto dall'industria. L'utilizzo di colle è sempre più efficace, ma in questo caso soprattutto interessa la reversibilità della colla. Beh, è un tema da sempre toccato, da sempre caldo per l'industria, per la ricerca. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando della biocolla delle Maldive, cioè di questa particolare colla che un gruppo di ricercatori sta studiando proprio alle Maldive per riuscire a riprodurla e poi destinarla ad altri usi appunto dei più disparati. Resto su Geo, da dove appunto ho tratto questo servizio sulla biocolla delle Maldive, per invece un giochino più divertente. Spesso ci si prova a interrogare interrogare qual è la capitale di uno Stato e talvolta appunto ci si ricorda che non è la città più importante di quello Stato, forse uno dei casi più famosi appunto il Brasile, dove San Paolo è la città più popolosa, ma in realtà la capitale, come sapete, è Brasilia. Naturalmente negli Stati Uniti New York ha 8 milioni di abitanti, la capitale Washington 600.000, e quindi questo non è un fenomeno che accade solo in questi stati così noti, accade in molti altri. Su Geo c'è un bel grafico che appunto riassume i casi in cui c'è questa disparità, per cui la capitale non coincide con la città di fatto più importante. Ad esempio questo succede in Nigeria, dove la città più importante è Lagos, ma la capitale Abuja ha solo 1.800.000 abitanti contro i 10 milioni e più di Lagos. E poi succede in Turchia, 12 milioni di abitanti e più per Istanbul, mentre Ankara, che è la capitale, si ferma a poco sopra i 4 milioni, e così via tutto il grafico, appunto, che poi prova anche a spiegare in una lunga didascalia perché succede questo, per motivi politici naturalmente, per identificare un punto più centrale, più comodo, magari anche per questioni amministrative, o perché talvolta si fanno proprio delle capitali progettate a tavolino, questa è l'espressione usata su Geo. Se ve ne vengono in mente altri potete provare a indovinarli, altrimenti su Geo trovate l'elenco di queste maggiori differenze. Visto che stiamo parlando di numeri, c'è una raccolta di numeri molto carina sull'ultima pagina di Men's Health. Non è una rivista che sfogliamo spesso, però oggi Alessandro Balia, che mi ha aiutato a preparare questo programma, ed io, trovandoci in assenza di Anita Panizza, che invece solitamente ci aiuta, ne abbiamo approfittato per una testata dedicata più ai maschietti e non alle donne. Spesso invece, sapete, sfogliamo anche riviste femminili, testate femminili. C'è quest'ultima pagina, dicevo, di Men's Health, tutta piena di numeri relativi a come si comporta, ai nostri comportamenti al supermercato, nostri nel senso degli uomini, però anche un po' di uomini e donne in genere. Allora, si apprende ad esempio da questa pagina che è curata da Paolo Madeddu, che spingendo un carrello mediamente pieno in 40 minuti di spesa si consumano 160 calorie. Poi si scopre che la tessera fedeltà, quella che fanno moltissimi supermercati, la si fa per risparmiare, però in realtà da quando uno la possiede inizia a spendere di più nel 42% dei casi, quindi quasi un consumatore su due, quando ha in tasca la tessera fedeltà, finisce poi per spendere di più. I supermercati non sono amici dei single, una famiglia tipo infatti si calcola spenda 185 euro al mese per mangiare, mentre un single ne spenderebbe 304. Su questo numero ho qualche dubbio, mi sembrano decisamente sorprendenti, ma questo è il numero appunto su Men's Health. Quanti italiani, quanti di noi si sono persi da piccoli in un supermercato? C'è una statistica, 1 su 3 si è perso da piccolo in un supermercato. E poi i bambini, portare i bambini al supermercato costa, perché si calcola che mediamente il genitore che li porta con sé al supermercato abbia poi uno scontrino maggiorato, insomma più pesante del solito, di circa 7 euro. Tutto questo su Men's Health di questo mese, in ultima pagina. Passiamo a numeri un po' meno allegri, ma per tornare su un tema che, perdonate, ci è caro a Radio 24, ci è caro al Sole 24 Ore, è davvero un tema che vale la pena di sottoporre anche al nuovo governo. Sto parlando della giustizia civile. Perché tanta insistenza? Perché davvero la mancanza della giustizia civile, che poi sono le liti, anche piccole liti che possono interessare tutti noi, o la lentezza, meglio, della giustizia civile, finisce per essere una giustizia negata. Oramai, diciamo, a furia di ripeterlo da anni, vediamo che la cosa è entrata abbastanza nel sentire delle persone. Però fa piacere segnalare un bel lavoro di Paolo Biondani sull'Espresso di questa settimana, in cui di nuovo rimettiamo in fila i numeri di questa giustizia mancata. La durata media effettiva di un processo civile nel nostro paese è di 9 anni e quasi mezzo, 3.449 giorni, contando anche la Cassazione. Però non è che solo il primo grado duri poco, perché a Milano, che è una sede, diciamo, abbastanza efficiente, il processo civile dura in primo grado 870 giorni, che sono, come capite, più di 2 anni, e poi ci vogliono altri 1000 più giorni per il secondo grado e così via. In un grande distretto come Bari, scrive Biondani, il giudizio di primo grado ha una durata media di 1346 giorni. A Reggio Calabria la regola è un'attesa di 2056 giorni per un verdetto di appello. Il problema, appunto, dicevo, non è che i processi non si concludano, il problema è che qui si arriva a una giustizia veramente negata. Giustizia negata, infatti, detto il presidente della Cassazione Ernesto Lupo, e anche ha parlato di stato di diritto a rischio. Peraltro la stessa Commissione europea ci ha sollecitato una riforma, e questa riforma, appunto, è nell'agenda del governo Monti. Naturalmente tutti pensiamo spesso ai danni che può provocare una giustizia penale male amministrata o le lentezze della giustizia penale, però la giustizia civile è in effetti la nostra vita di tutti i giorni, è il buon funzionamento dell'economia, è la certezza per le nostre attività, e quindi è molto molto più importante e capillare da un certo punto di vista della giustizia penale. Nelle pagine poi dell'inchiesta si capisce anche che non si tratta di una poca produttività dei giudici, perché mediamente si calcola che, ad esempio, in Cassazione vengano decisi per ogni giudice 274 processi all'anno, che pare una media più che rispettabile. Quindi ci potrà essere qualche sede particolarmente poco reattiva, ma in generale i giudici hanno una produttività sufficiente, anzi addirittura elevata in qualche caso. Il problema è che le cause sono molte e ovviamente tutto il sistema è gravato da un peso eccessivo che non si riesce a far diminuire. E allora veniamo a cose più liete che non il cattivo andamento della giustizia civile in Italia. Parliamo di Shakespeare. Shakespeare perché, come sapete, da secoli si discute se Shakespeare fosse realmente la persona che pensiamo sia stata, o invece un nom de plume, un nome d'arte che serviva a coprire un'altra persona, magari un nobile che non poteva esporsi. La questione torna d'attualità perché ci ricorda Sette, che trovate da giovedì con il Corriere della Sera, ci ricorda che sull'argomento sono in uscita sia un film sia un libro, il libro segreto di Shakespeare, che è stato curato da un giornalista e sceneggiatore statunitense. Soprattutto questo giornalista e sceneggiatore, che si chiama Gene Ayres, ha scelto di romanzare la ricostruzione dell'intricata faccenda e lascia a dei personaggi immaginari il compito di scoprire la vera identità del bardo, e naturalmente presenta anche su Sette, nella rubrica Mix curata da Donatella Bogo, le ragioni che continuano a tormentare gli storici della letteratura a proposito del mistero di Shakespeare. Lo trovate nella rubrica, appunto, di Sette, che è in edicola con il Corriere della Sera. E visto che il tempo più o meno si sta concludendo, ho ancora una trentina di secondi, mi dice Fabio Cantadori dall'altra parte del vetro, restiamo in tema di letteratura. Oggi con il Sole 24 Ore abbiamo un racconto d'autore molto prezioso, perché si tratta di un lavoro di Andrea Vitali, noto scrittore italiano, notissimo scrittore italiano, che è un inedito in Italia, quindi per la prima volta pubblicato con il Sole 24 Ore. Lo trovate in edicola acquistando il nostro quotidiano insieme al racconto di Andrea Vitali, Parola di cadavere. E con questo consiglio per la lettura concludiamo la puntata di oggi. Vi ringrazio. Magazine 24 ritorna domenica prossima.